sito testé enunciato e scegliersi la modalità più adatta per quanto riguarda la sottoscrizione, ossia il conto corrente postale, la carta di credito, bonifico, nonché venire direttamente qui a San Lorenzo. Come consuetudine, una serie di saluti per quanto riguarda questo inizio di prove tecniche, ossia Dario Arrigo e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name, Cecilia Miradoli di Pindar, Alberto Clipper di MDMA, Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo, a Berlino c'è Mariano Virdia e poi Cristiano Bocci di Chemical Resistance, That's the Carlo from Boston, Gianluca Bacuzzi e Maria qui a Roma, Alessandra anche qui a Roma. Francesco Cornello, anche lui andiamo a salutare. Salutiamo anche Like Awake per quanto riguarda l'ambient storica. Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Allora, si va ad iniziare con questa opera ideata da Raffaele Pezzella attraverso la sua 8 Tower Records, uno dei tanti riferimenti per quanto riguarda le etichette di questo musicista e produttore napoletano. The Beyond Music Inspired in the Lucio Fulci Death Trilogy. Un album che nasce come omaggio proprio all'artista Lucio Fulci, al regista Lucio Fulci, che per molti di voi non ha bisogno di presentazioni, il famoso regista di, diciamo, cinema horror e dintorni. E quindi Raffaele Pezzella ha chiamato a sé una raccolta musicisti per ideare un'ipotetica colonna sonora per ipotetici film futuri, ma anche per commentare quelli del passato. E allora, questa sera iniziamo con Mario Lino Stancati con Se parla il mostro. E poi lo spagnolo Club con Seven Doors of Death. Thank you. Abbiamo continuato l'analisi di questo lavoro di Beyond Music, inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy. Come già detto, ideato e assemblato da Raffaele Pezzella tramite la sua 8 Tower Records. Un artista a noi molto caro, Mario Lino Stancati, che ha aperto la trasmissione con Se parla il mostro, e poi lo spagnolo Club, Seven Doors of Death. Gli altri artisti che arricchiscono la compilation sono Bad Girl, Nara Sheran, Progetto Non Aime insieme a Duo Serpe, tutti, se non sbaglio, con due tracce cada uno, anzi tre tracce cada uno. Altri appassionati intanto si sono uniti qui all'ascolto di questo spazio di oggi. Ci abbiamo Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal, Rosa La Vita, Moschita dei Miramare, che ci sta ascoltando dall'Olanda. Becuzzi l'abbiamo salutato, sta in Toscana, Aurora. E a Venezia abbiamo Eugen Vintras del progetto Ambient Gin. E allora ci trasferiamo a Milano. Ci andiamo ad ascoltare Camera Oscura, un'idea nata dalla volontà soprattutto di Eugenio Mazza di Pavor Nocturnus, che si è unito a Marco Valenti, già fondatore della Totan Schwan, con il quale esce questo Quod Est Inferius. Per adesso l'unica testimonianza di questa collaborazione, atmosfere non molto dissimili da queste, per cui ci ascoltiamo Attera e Ultima Necat. Anche per questa sera un passaggio per quanto riguarda Camera Oscura con Marco Valenti ed Eugenio Mazza. Quod est inferius, ovviamente dal profilo catacombale oscuro. E a proposito di simili atmosfere, torniamo indietro per un attimo alla compilation dedicata a Lucio Fulci. Per ringraziare un assiduo ascoltatore di queste frequenze, Mario, peraltro anche tassista, che porta in giro anche attraverso il tuo tassì anche questa musica di prove tecniche di trasmissione. Infatti una volta, se non due, mi passò anche qualche suo, diciamo, cliente, e lui metteva in risalto la qualità della compilation ideata da Raffaele Pezzella con tutti quegli artisti che ho nominato ad inizio trasmissione. Compilation che ci ascolteremo chiaramente anche la prossima settimana. Questo è l'ultimo appuntamento del 2021 e quindi st'altranno, il prossimo anno, si entrerà nel trentennale di prove tecniche di trasmissione e nel ventennale invece di Disorder. Si risaluta Maria Alberto Clipper. E ci abbiamo anche il buon Enrico Ponzoni di Sokunshi Butsu Project. Andiamo nell'est europeo, andiamo parecchi anni indietro, per andarci ad ascoltare un lavoro degli Autopsia, un progetto di origine serba, anche se poi si sono trasferiti, o meglio si è trasferito, perché in realtà il nucleo principale è una one man band, e si è trasferito poi a Praga negli anni successivi. Questo lavoro uscito nel 90, Death is the Mother of Beauty, e si potrà apprezzare attraverso le prime due tracce, Scars of Europa e Sign of the Bodies, la marzialità e la potenza di della concezione musicale di Autopsia. E hanno riscaldato i cuori di molti di noi questi Autopsia, album datato ma che ha conservato intatto il suo fascino. Questo Death is the Mother of Beauty del 1990 attraverso la Stahlplaat, gloriosa etichetta olandese. Epici, marziali, potenti. In parte riprendono anche le vestigia dei Laibach, non lontanissimi geograficamente peraltro. Il progetto ruota intorno e soprattutto a Radovan Milinkovic, un'attività che iniziò nel lontano 1985, e quindi stiamo parlando di un pezzo di storia della scena marziale industriale, al pari del prossimo artista invece scandinavo, Lina Babydoll, Peter Anderson, noto soprattutto come Deutsche Nepal. Anche per questa sera un passaggio riguardante la sua compilation è uscita recentemente e che porta il nome di Dystopian Party Collection numero 3. E allora, questa sera ci ascoltiamo una sua collaborazione insieme a Thomas Eklund, che portava il nome di Swollen con Binocularized, e poi un inedito proprio di Deutsche Nepal dal nome Oscillations. oscillations, oscillations. L'incredibile efficacia di ogni cosa che tocca Deutsch Nepal e della serie diventa oro, compresa questa sua compilation uscita proprio quest'anno, la Dystopian Party Collection numero 3, e anche le prime due parti sono assolutamente di rispetto. E con me sono d'accordo i vari Wurnus Eilin, l'industrial piemontese che vado a salutare, Nebojša Bačić della Lucesia, grossa realtà svizzera. Saluto anche Paolo Contucci qui da Roma, dal settore Roma Est, Massimo Mascheroni di Others. Come al solito un parterre di tutto rispetto che ci onora della presenza a tutti gli vari appassionati che da molti anni affollano, diciamo, le serate del sottoscritto. E invece io vado avanti e si torna in Italia. Qualcuno ricorderà anni fa, ma anche recentemente, grazie poi a questo spazio, le forbici di Manitou and Friends, che è qualche anno fa, nel 2019 esattamente, andarono a coverizzare Mina, riservandole un trattamento di favore a livello industrial ed elettronico, e quindi una serie di musicisti che insieme alle forbici di Manitou di Vittore Barone hanno prodotto questo album dai risultati direi sorprendenti. L'analisi dell'album la concludiamo questa sera con Conversazione, che vedeva la collaborazione di Nightmare Lodge di Ivan Jusko, veramente colonna dell'industrial degli anni 80 e 90, ricordiamo la Minus Abends fondata dallo stesso Ivan Jusko. E poi ci ascolteremo Le Mille Bolle Blu con la collaborazione di My Cat Is an Alien. Ma cosa vuoi pensare? Ormai conviene più